come lei, che ha un'attitudine, come fa a avere i capelli? Peccato, bello. Peccato per i capelli, ma come mai? Tanto tempo. Tanto detto è andata perché? Tanto perché non che non ha. Apri un po' di più. Vedi un po' se riuscite in alto, solo in alto. Guardate se aprire tutto la griglia. No, lì è troppo difficile. E allora va. Va bene, grazie. E a pagina 108, non troviamo un ordine preciso, ma sono due voglio dire che certamente faremo e quindi in attesa che arrivino possiamo ricorrere alle cose. Qua, questo, qui, ci siamo. Altre domande da farmi, ci sono cose da chiedere? Oh, e quindi cominciamo il nostro corso. il mio luogo anche di insegnamento, che è spaventosamente, ve lo dico per tempo sul mio luogo di insegnamento, ve lo dico, è il 37° anno di insegnamento, fate voi, 37 anni. Cominciamo a fare un discorso in questo senso. Recentemente leggevo in Nabokov, che è un sommo scrittore russo, che ha scritto uno dei libri più meravigliosi del XX secolo, che è Lolita, e che ha fatto scandalo, come sapete, la storia di un uomo di una certa età che ha dei che stupra e che violenta il sistema anche psicologico. Sì, può. Lei ha 20 crediti? Ava Lager? Sì, sono per la specialistica in italianistica. In italianistica. Però vengo da Messina, ho fatto già 5 crediti. Ma non ha 20 crediti in francese? No. E allora non posso dire. Vabbè. Prego. Questo grande scrittore russo di origine, questo scrittore russo, è anche uno straordinario critico. Chi leggesse Lolita, volevo dire, chi leggesse Lolita, nell'edizione di Adelphi, che è la migliore traduzione, o naturalmente tanto meglio l'originale, evidentemente, avrebbe davanti un libro di un'inarrivabile bellezza, importanza. È un grande critico. Tra le cose di critica parlava dell'importanza dei dettagli, delle parole nella qualificazione dell'arte di un autore. E io pensavo però che la cosa che convince, che mi colpisce di più quando leggo un grande libro, non sono tanto le preziose, raffinatissime parole o lo straordinario flusso di scrittura che c'è per esempio in uno scrittore come Nabokov, ma un'altra cosa. Che cos'è che mi colpisce in un'opera d'arte? Mi colpisce l'atmosfera, il clima, l'atmosfera. E stai a vedere che quello che rimane dopo, quando noi abbiamo preso il libro, è quando poi abbiamo dimenticato i dettagli, ma è l'atmosfera. Non so, mi viene in mente, la prendiamo da lontano. Vedete, viene in mente per esempio i grandi romanzi di Thomas Mann, no? Quella che è stata chiamata una letteratura grande borghese, in opposizione alla letteratura piccolo borghese, come Studioso De Angelis, Enrico De Angelis, che andava in questo modo, il romanzo grande borghese. Grandi palazzi, saloni, pranzi natalizi, vivande innumeri e succulente nelle festività, e non solo, molti invitati, molti ospiti, molti bambini, odore di tabacco. Chi ha visto il film per caso, Fanny e Alexander, c'è qualcuno di voi che conosce questo film, di Ingmar Bergman, sa più o meno di che cosa, l'ha visto? Ecco, sa di che cosa sto parlando. Odore di tabacco, odore di vino, odore di sesso caldo e spregiudicato. Ora, questa atmosfera di Thomas Mann è in fondo il segreto dell'arte di Thomas Mann. L'atmosfera è quanto di più importante, e se uno scrittore non riesce a creare l'atmosfera, non è un grande scrittore. L'atmosfera è ciò che rende riconoscibile l'arte in tutti i sensi. Io, se sento Beethoven, dopo 5 battute, esagero un po', ma so che è Beethoven, so che in quella zona, no? Io posso confondere Bach con Vivaldi, ma poi insomma mi rendo conto, poco esperto che sia, mi rendo conto. In fondo questo discorso che ogni opera d'arte è un'atmosfera è abbastanza facile, è abbastanza intuibile, no? guardiamo il quadro impressionista. Il quadro impressionista è una postera per cui a un certo punto voi, se non siete esperti, andate, non so, al Musée d'Orsay a Parigi e vedete tanti quadri che sono diverranti. L'Italia veramente è oltre il fondo, ma vedete, non so, Picasso, vedete Renoir, Manet, Monet, Cézanne. Molti vi sembrano simili, insomma. E se siete, l'atmosfera è sempre quella, ma se siete bravi, riconoscerete l'atmosfera particolare di Renoir, diversa da quella di Manet. Questa parola, atmosfera, è proprio ciò che caratterizza un'opera d'arte. Sarebbe interessante vedere il procedimento inverso, come fa uno scrittore, che voglia essere un grande scrittore, a creare un'atmosfera. Lì è il talento. Non è che lo scrittore sa la mattina come fa a creare un'atmosfera, ma c'è qualche indizio per poter arrivare a creare un'atmosfera. Ecco. Per esempio, uno scrittore, un artista deve avere in mente, secondo me, una canzone dello stile, e poi nella canzone vanno a finire le parole, oppure una canzone dei colori, deve sapere che tipo di colori mettere, che tipo di colori mettere, mi capite bene? Alcuni stilisti che sono artisti, naturalmente sono artisti del mondo moderno, hanno questa canzone. Se io vi dico il nome, non so, di Valentino, in cui fra l'altro c'è un'esposizione di un nome pubblico che è molto bella, è per la rapace, soprattutto di questo genere. Il nome di Calvin Klein è quello che veste tutte le persone di nero, oppure se prendiamo Balenciaga, o prendiamo un altro grande, prendiamo il nostro, con i capelli corti, bianco, con le sue magliette nere, con le sue magliette nere sulle braccia, sui bicipiti muscolosi, con quelle giacche, con le spalle che sono molto morbide, vedete, lì nella moda si esprime un'atmosfera. Un quadro barocco, saltiamo un palo in frasca, un quadro barocco lo riconoscete subito, una chiesa barocca la vedete subito, una chiesa gotica la riconoscete subito, alta, lunga, buia, nera, cercano di imitare, diceva Proust, le chiese gotiche cercano di imitare le foreste del nord, l'Arice, la Vega. Sarei per dire che anche al di là dell'arte, tutte le persone che incontriamo, che hanno una personalità forte, hanno un'atmosfera, emanano un'atmosfera, no? E quando noi, passando alla vita affettiva, noi ci innamoriamo di qualcuno, in realtà, senza saperlo, ci innamoriamo dell'atmosfera che viene fuori da quella persona. Certo, io faccio una ragazza che mi sono innamorato di Paolo Rossi, facciamo un nome, sì. Ecco, perché ha dei bei bicipiti, penserei che è idiota, insomma. O perché, non so, ha dei genitali, io non credo. Ma neanche si può dire che uno si innamora di un cervello, anche se gli piace il cervello, o di un paio d'occhi, no. È un clima, ed è quello che poi, quando gli rapporti affettivi sono rotti, noi sentiamo come dolorosamente e inarrestabilmente mancato, fatto di cadenze, di inflessioni, di piccoli tic, di morbidezze, di un certo lessico. Quindi vedete che questo concetto di atmosfera che distingue il nostro interesse agli altri nella vita sociale, mi segue bene? Sicuro? No, credo. E lo troviamo a maggior ragione nell'arte. Proprio parlava per l'appunto, era lui che diceva la parola canzone, tornando a un libro. Un libro ha una canzone. una canzone. Flaubert a un certo momento, forse conoscete questo aneddoto che ha citato, e lui scriveva con una lentezza straordinaria, insomma. E quando gli chiese Marcin Duchamp quanto gli mancava Marcin Duchamp, Flaubert rispose: ma mi mancano 15 pagine. E perché Marcin Duchamp dice: Madonna, ma allora chissà quanto ci vuole ancora per sapere che era. Dice: no, no, no, invece in poco tempo lo finisce, per poco tempo. Per scrivere tre righe ci vuole un sacco di tempo, 15 pagine ancora, adesso non dico 15 per dire, e lui rispose così: no, ma non importa, perché ho in mente la canzone. Cioè, so come andare avanti, quindi lì ci metterò la parola. Un libro ci piace quando lo leggiamo, è un bel libro, è difficile fare. Uno tenta, le persone più così, più semplici, più ingenue, eccetera, per seguire la storia, per vedere come va a finire. Ma naturalmente non è la storia che fa l'arte. È un qualcosa, per l'appunto, che di cui noi ci rendiamo conto a un certo momento, il clima, se siamo entrati o no in quel clima. Quando siamo entrati in quel clima, siamo come stregati. Esattamente come? Siamo stregati quando entriamo nel clima di una persona, un amante, anche un amico, un professore, un modo di comunicazione, un politico, eccetera. L'atmosfera è fatta non solo di canzone, è fatta di umori particolari che vengono fuori, di tristezza, di pessimismo, o al contrario di lieta apertura, farsi della vita, costruirsi della vita. È fatta di ambienti che si ripetono. Vi parlavo prima delle fastose sale dei romanzi grandi borghesi, sale, salotti dei romanzi grandi borghesi di Thomas Mann, no? È fatta di una certa moralità che è sempre la stessa. Cioè l'atmosfera vuol dire l'uomo che sta dietro, l'uomo che naturalmente ha scelto di esprimersi, che ha scelto di esprimersi attraverso una scrittura. Se noi non conosciamo l'autore, ma leggiamo di una poesia, diventiamo di una poesia, una solennità sontuosa e appassionata, e vediamo al contempo che questa solennità sontuosa e appassionata si unisce a una forma impeccabile, nessuna sbavatura nel verso, perfetta la forma, mirabile questa solennità. Si tratta di un poeta dell'Ottocento francese, il più grande poeta dell'Ottocento francese, è abbastanza facile dire che si tratta di Baudelaire. Se noi, una poesia di Baudelaire, fosse stata messa questa poesia in una bottiglia, chiusa e buttata in mare, e nessuno avrebbe detto questa cosa. Ma questa poesia, la bottiglia si è conservata. E 150 anni dopo, questa in un punto remoto dell'Atlantico, questa bottiglia viene fuori. A trovare questa bottiglia è uno studioso di letteratura francese. Uno studioso di letteratura. È uno intelligente, uno che conosce, come dice, le clavier e fa la bottiglia. Prende questa bottiglia e vede che dentro la bottiglia c'è una poesia. Mi segue? Prende la poesia, la guarda. E vede che in questa poesia c'è questo tono solenne e appassionato. Vedete che i versi sono senza sfavature, le cesure sono perfette, gli accenti, gli ittiti perfetti. il grande di Alessandrino. E vede che c'è una visione della vita alta e drammatica. Vede tutte queste cose. A quel punto dirà Baudelaire: questa è una poesia di Baudelaire. Allora la prima cosa da fare, concludendo questo preambolo, quando noi siamo di fronte a un'opera d'arte, che può essere letteraria, come nel nostro caso, ma può essere pittore, può essere un film, è cercare l'atmosfera, il clima particolare, la canzone dello stile, l'umore, la moralità che ne trapela. È chiaro? E lì, in questa atmosfera, consiste l'arte. E quando c'è una pagina bellissima di Proust, in cui lui suona, il narratore della ricerca, in cui suona una composizione, un pezzo di un musicista dei suoi tempi, al piano. E a un certo momento, suonando, si rende conto che questa cosa, questo che sta suonando, gli ricorda qualche altra cosa. E fa un paragone meraviglioso. Gli ricorda qualche altra cosa, come quando si guarda un bambino piccolo e tu nello sguardo del bambino piccolo vedi gli occhi del nonno, del padre o del nonno, di qualcun altro. Mi ricordo per esempio che quando mia figlia era piccola e ero colpito di vedere un tipo di risata che non mi apparteneva minimamente, né apparteneva a sua madre, nonché mia moglie, ma non apparteneva a mio padre, a mia madre. E ritrovare questa risata in questo tipo di riso, in una persona che tra l'altro mi aveva allevato per gran via, anziano, che però aveva questo modo di ridere. Allora, in brutto, il musicista che sta suonando fa venire in mente al narratore che si tratta di Wagner, che si tratta del Parsifal, e ricorda il Parsifal, no? E quindi l'atmosfera di un grande può ricordare un'altra atmosfera. Non è che le atmosfere siano come delle monadi chiuse in se stesse. Certo, distinguono, caratterizzano profondamente l'artista, ma hanno fra loro delle parentele, se tu consideri un quadro di Leonardo, dopo un po' ti rendi conto che Leonardo ha fatto pochissimi quadri, poi quelli che faceva si stufava di fare, come voi sapete, gli lasciava interrotti, ne aveva fatto una decina di quadri. I grandi quadri di Leonardo, tutti da voi, sono pochissimi. Ma il suo maestro, che era Andrea Verrocchio, di quadri ne ha fatti moltissimi, a centinaia, e tu avverti qualcosa del Verrocchio, infinitamente superiore a quello che faceva Leonardo, naturalmente. Così un allievo avverti il maestro con le variazioni, insomma. Qual è l'atmosfera dello scrittore che consideri? E cioè Pierre Verdi, un poeta che è vissuto in modo molto appartato, che è stato a un certo momento vicino a Dada, ai surrealisti, ma poi è stato appartato non in senso soltanto intellettuale e culturale, ma appartato perché si è andato, lui che era stato ateo, questo è uno degli aspetti più interessanti, è andato a vivere in una abbazia. Ma, questo è un altro aspetto interessante, la fede religiosa che aveva, la fede cristiana che aveva acquistato, poi lo abbandonò. E quindi è morto in una ricerca della fede, diciamo così, senza esito. Non solo, ci sono dei personaggi di sfondamento, altri meno. Revedì era estremamente apprezzato nei suoi tempi, ma non aveva quella capacità di sfondamento che per esempio era necessaria alle avanguardie. E quindi in qualche misura la sua opera ha avuto un successo minore di quello che si poteva prevedere. L'opera, torniamo naturalmente continuamente sul personaggio, l'opera che comprende molti testi, ma i più, quelli poetici, i significativi, sono raccolti in due volumi. Uno si intitola il primo Plus bas du temps. Ecco, questo qui vedo va dal 1915 al 22 e l'altro va negli anni successivi. E il secondo si intitola Mendel. Una cosa molto interessante è che nella seconda parte della sua poesia cambia stile. Questo è un aspetto molto interessante, cambia stile. Ma noi non interessa tanto la seconda parte, perché ne accenneremo, noi ci interessa la prima, che è l'altra parte, pur avendo fatto delle poesie bellissime nella seconda parte, ma ci interessa la prima parte. Per capire l'atmosfera di Revedì, dobbiamo capire che questa poesia si ispira alla pittura in un modo molto complesso. Vi dirò subito che, prima di passare alla definizione in questo modo complesso, costruisce una poesia come se fosse un quadro. Quindi mettendo in questo quadro degli oggetti, creando delle geometrie, rappresentando dei personaggi, ma direi non tanto come se agissero, i personaggi agissero, ma nella misura in cui sono visti. Vorrei che riflettesse su questa differenza, no? Cioè, io posso considerare una persona nel suo agire, va bene? Quindi gli do una, no, a questa persona un'autonomia sua, è una persona che agisce, e posso considerare una persona come se fosse un quadro, come se fosse lì per essere guardata. Mi seguite? In un romanzo d'avventura, in un film d'azione, i personaggi agiscono. Noi li guardiamo per l'azione che i personaggi agiscono. A nessuno viene in mente che questi personaggi sono visti. Sono visti. Se noi guardiamo, sempre calcolando un esempio all'altro, si orienta lei, se noi trasvogliamo per esempio da personaggi di cinema a una grande opera d'arte, la Pietà di Michelangelo, vediamo quella di San Pietro, noi vediamo una donna che ha tra le braccia il figlio morto. Quindi la donna che agisce, tiene tra le braccia il figlio morto. Bene, a nessuno di noi verrà in mente di considerare che la donna tiene tra le braccia il figlio morto, secondo un'analisi. La donna è lì per essere guardata, mentre tiene tra le braccia il figlio morto. Allora, se tu rappresenti in una poesia un personaggio, non per quello che fa, ma per il fatto che è lì per essere contemplato da te spettatore, la poesia assume una strana fissità, come una sorta di quadro, per l'appunto. Oggetti visti. Personaggi visti. Quindi nella poesia di Reverdy, su questa stessa lunghezza d'onda, troviamo delle nature morte. Voi sapete tutti che cos'è una natura morta. Una natura morta è una rappresentazione di oggetti o di frutta, di fiori, no? La natura morta, sapete, è la forma più primitiva d'arte, perché nei graffiti sulle caverne si sono trovati per l'appunto fiori, frutta e cose di questo genere. Si dice natura morta proprio perché è lì, natura che sta lì non per vivere, per essere coinvolta, ma per essere guardata. Noi troviamo nella poesia di Reverdy oggetti, geometrie, personaggi visti, nature morte, spettacolo. Poi troviamo, con grande stoicchia, troviamo luci. È una poesia che è squarciata dalle luci. Poi troviamo un'altra cosa molto interessante. Troviamo come la rappresentazione plastica di un senso di solitudine. E finalmente si trova il silenzio. Come è rappresentato il silenzio? Direi che uno dei modi per rappresentare il silenzio, a parte naturalmente il discorso poetico che viene fatto, è un modo molto semplice ma anche molto efficace, e cioè ed è costituito dagli spazi tipografici, nel senso che è i non solo i versi vengono staccati tra di loro in modo più o meno anche, no? Vediamo che ci sia un'interlinea 1, faccio per dire, e poi se metti un'interlinea 3, tu lo senti il silenzio che intercorre tra un verso e l'altro, chiaro? Ma per esempio il silenzio viene costruito spostando i versi in modo da renderli asimmetrici. Cioè, per esempio, a me gli occhi, un verso parte di qua e va a finire qua, no? Va bene? Sapete perché il verso si chiama verso? Come? Perché verso va qua. Ma il secondo verso, guarda, a me gli occhi, questo parte da A e va a finire B. Il secondo verso non parte da A di solito, ma parte in mezzo. Allora questo spostamento ci dà un senso di pausa, di silenzio. Quindi gli spazi tipografici e la studiata asimmetria o simmetria nella scrittura dei versi ci dà questo senso di silenzio. Dico tutto che il silenzio è un grandissimo protagonista di questa poesia, che si presenta molto povera, studiatamente povera. E questa anche è abbastanza una novità in quei tempi. Se noi prendiamo la poesia, quella di pochi anni prima, insomma, quasi coeva, come quella di Apollinaire, vediamo che la poesia di Apollinaire è tutt'altro che povera. C'è qualcuno che ha fatto con me il corso su Apollinaire? È tutt'altro che povera. La poesia di Reverdy invece è povera. Direi è schema. Oggetti, figure sono abbandonate al silenzio che gli sta intorno. Ecco. Quello che viene rappresentato quindi nella poesia è il senso del quadro. Non soltanto una situazione viene rappresentata, due cose vengono rappresentate. Una certa situazione, che è quella che muore in modo seguente, ma c'è la situazione poi è rappresentata come se fosse un quadro. Chiaro il punto? Come se fosse un quadro. Influenza da parte della pittura. Ora, se noi indietro un po' nei decenni, troviamo nell'Ottocento delle contaminazioni tra scrittura e pittura, e forse una delle più famose, una delle più interessanti contaminazioni tra scrittura e pittura è fatta da Mallarmé. Esatto, Mallarmé. Avete seguito un corso su Mallarmé? C'è qualcuno che l'ha seguito? Oh. Mallarmé, il quale fa un poema più noto dei suoi poemi, quelli più noti, ha fatto tutte poesie, quasi tutte meravigliose, insomma. È il Faun, il Fauno, e nella elaborazione che fa Mallarmé comprende tre fasi: dalla meno perfetta alla più perfetta, cioè dal monologue del Faun, che è del 65, poi nel 66 c'è, nel 75, scusate, 65 fa il monologue, nel 75 con i vari tocchi dell'improvvisazione del Faun, e si arriva poi al 76 in cui c'è la versione definitiva che si intitola, tutti lo sapete, La Tragedia. Che cosa racconta in questa poesia? Lo rammento per chi non la conosce. In questa poesia, in questa lunga poesia, si parla di un fauno è una figura mitologica che è legata molto al segno della sessualità, della mascolinità. Il fauno è sostanzialmente uno che ha rapporti sessuali frequenti, frenetici e irresistibili. Con chi? Come niente. Come niente. Allora, questo fauno sta dormendo, si sveglia, e al suo risveglio ha quest'idea di avere posseduto due niente. Ora, la cosa è interessante perché, insomma, uno normalmente, per motivi anatomici, possiede una donna alla volta. Lui però ne ha possedute due insieme, il che evidentemente ha un grande valore, cioè, o è una sciocchezza, nel senso che fantasia, insomma, con una delle due lingue e quindi possiede due donne insieme, oppure vuol dire che ha posseduto uno dopo l'altro, ma in ciascuno dei due casi si dà l'idea di una fantasia di potenza. No? Ho posseduto due. Da certi segni che ha sul corpo, lividi, evidentemente ci sarà stata una colluttazione o cose di questo genere, deduce che è possibile che questo coito sia avvenuto. Ma sono altri indizi che fanno pensare al fauno poliziotto, al fauno investigatore, che invece la cosa quella sia semplicemente sognata. Il fauno non è solo un personaggio erotico e segnato, fortemente segnato sessualmente. Il fauno è anche un poeta, è il poeta, è l'artista. No? Queste due cose. E è il musico, quello che vuoi. Alla fine il fauno conclude la sua investigazione sul coito avvenuto o mancato, dicendo: ma in fondo che mi importa di quella che è stata davvero la verità? Quello che mi importa è che io adesso sono qui nelle condizioni di poter cantare le mie, cantare quello che è avvenuto. Questo tipo di impianto di situazione ha un suo decor, ha uno sfondo che è naturalmente quello che avviene nel bosco, in un paesaggio agreste, idillico, specchi d'acqua, alberi e un calore pesante meridiano. La parola da prenudire in forma è perché da una parte il pomeriggio segna un declino della giornata, quindi il fauno è in una posizione di declino rispetto alla sua performance sessuale, no? Chiaro? Ma c'è anche il fatto che le performance sessuali, come alla vostra età dovete sapere, riescono meglio quando uno ha mangiato, quando uno, no? Se a lei chiedesse di avere una forma sessuale dopo non aver mangiato per 7 giorni, non aver dormito per 15, anche nonostante la sua comprovata evidente virilità, lei, questo è il gesto, conosce questo gesto, è un gesto quasi universale. Ma nel pomeriggio, nel caldo, deve immaginare proprio una situazione, perché la letteratura è fatta perché la vediamo nella nostra vita, nel caldo, nel pomeriggio, nel sonno, è facile tutto questo, naturalmente. Però, ecco, l'artista dice, alla fine, che l'abbia fatto o no, non importa, perché lì sono il clima è questo, ed è un clima assolutamente pittorico, al punto tale che Mallarmé ha scritto questa poesia avendo presente un quadro che voleva mettere in poesia. In questo quadro c'è un elemento che domina, ed è lo sguardo. Sguardo del fauno sulle ninfe che non ci sono, quindi sguardo impossibile. Il fauno è lì, si esibisce per essere guardato. Se noi teniamo conto del modello del quadro, teniamo conto della presenza dello sguardo, capiamo che siamo all'interno di una tipica poetica impressionista, di una tipica poetica impressionista. Mallarmé aveva scritto a un suo amico nel 64, quindi l'anno precedente alla composizione del fauno, quella che doveva essere secondo lui la sua poetica. Dovete scrivere queste parole, che sono molto importanti. La sua poetica doveva essere perdre, non la chose, ma l'effet qu'elle produit. Dipingere non la cosa, ma l'effetto che la cosa produce. Ebbene, quello che lui scrive all'amico Casalis è esattamente la poetica dell'impressionismo. Dipingere non la cosa, ma l'effetto che produce. Mallarmé era vicino all'impressionismo, come amici, come ambiente. La donna che lui amava, Marie Laurent, sempre naturalmente nel modo sensuale e freddo di Mallarmé, Marie Laurent, era stata la modella nonché amante di Manet, niente meno. Quindi era del giro. Queste belle donne, capisci che una pensa esperienza, ma tu chi hai avuto nella vita come amante? Ho avuto Mallarmé e Manet. Allora, ricordiamo rapidamente che cos'è l'impressionismo. La ragione per cui lo conoscete tutti l'impressionismo è perché è tra le forme d'arte, tra i movimenti poetici, o poetici pittorici, insomma, tra i più facili, tra quelli che più attirano l'attenzione. Se voi andate al quello che una volta c'era il Jeu de Paume, adesso il Musée d'Orsay, vedrete che il Musée d'Orsay è pieno sempre, anche le gallerie e i musei vaticani sono pieni, ma il Musée d'Orsay è pieno fino a notte, sempre tutti i giorni dell'anno, più del dubbio, che sono quasi di smaccata, conclamata, e possiamo dire qualche volta, anche in un po' banale bellezza, perché è impressionante. Quando comprendono che i loro quadri vendevano, ne facevano uno qua, ma capisci, non soprattutto poi era geniale, certo, la maggior parte di quello che è stato raccolto si tratta di opere straordinarie. Cosa volevano gli impressionisti? Anzitutto quando hanno operato gli impressionisti. Diciamo ancora questo e dice. Gli impressionisti hanno operato nel fulgore della loro attività in un lasso di tempo abbastanza breve. Cioè dal 67 nel 1970 all'80. Questo non vuol dire che poi l'80 fa finisce l'impressionismo, no, si è continuato. Non soltanto non vuol dire che finisce l'impressionismo, possiamo dire che l'impressionismo da un certo punto di vista non è mai finito, nel senso che si è continuato a fare quadri impressionisti anche dopo. Ma andiamo così, fra il 60 e l'80 c'è stato il quasi non maggiore di impressionismo. L'inizio, il quadro che diede il là, per così dire, all'impressionismo fu famosissimo. Voglio sapere chi non lo conosce, dovrebbe essere picchiato. No? Le Definition Lair, il manetto. Chi lo conosce benissimo? Era presente, eh? Se guardate le decine di Urlema, vedete subito di che pittura si tratta. Una pittura, ricordatevi questa espressione, en plein air, all'aria aperta. Il segreto era questo. Loro volevano dipingere prevalentemente cose che fossero all'aria aperta. Prevalentemente. E volevano che le cose dipinte fossero come la retina le percepisce, non come sono veramente, ma come la retina le percepisce. Facciamo un esempio concreto. Di che colore è il mare? Il mare è azzurro. Il mare è azzurro. Ma se voi lo vedete il mare di lontano, al tramonto, vi sembrerà nero. Ma prendiamo un prato. Per fare un celebre esempio, Renoir dipinge un prato baciato, per così dire, dal sole. Un prato è verde, ma baciato dal sole diventa giallo di luce. Allora veniva dipinto il paesaggio sulla base di quello che era percepito dalla vita. Possiamo dire subito inizialmente quindi che c'è un predominio assoluto del soggetto artista. Tutta la realtà dipende dal suo occhio che guarda. In qualche misura l'oggetto nella sua effettiva realtà, il prato verde, non viene più considerato. Viene considerato solo il prato come è percepito dalla terra. Proviamoci qui. Ci vediamo allora giovedì, sapete l'orario è dalle 11 alle 13, e cercate di procurarvi questo libro subito attraverso anche il sistema di fotocopie, insomma, fatelo.